Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, questa è Italia in controluce, il programma di Radio 24 che lavora e che indaga tutti i giorni sulla politica, ma anche sulla cronaca, sul costume e sulla società italiana. Oggi parliamo del lavoro degli immigrati in Italia, reportage di Francesco Maesano. Questo tempo di crisi può essere un tempo di integrazione, o se mi permettete il termine, è un tempo di ulteriore o un tempo di pronunciata disintegrazione. Integrazione o disintegrazione? A tratteggiare l'alternativa è il ministro della cooperazione internazionale, Andrea Riccardi. L'11 gennaio scorso, di fronte alla Commissione Affari Costituzionali, il ministro proveniente dalla comunità di Sant'Egidio ha affrontato la questione dei permessi di lavoro per gli immigrati, proponendo di prolungare ad un anno il periodo in cui è possibile risiedere nel nostro paese mentre si cerca lavoro, contro i 6 mesi della normativa vigente. Mettiamo che una parte di queste persone siano ritornate, me lo auguro, nel loro paese. Ma c'è una percentuale non trascurabile che si può stimare intorno a 350.000 persone che rischia di finire nel circuito della irregolarità. E allora i lavoratori stranieri possono perdere il posto di lavoro, ma come possono permanere sul territorio nazionale per trovare una nuova occupazione se il loro periodo è limitato a 6 mesi? Io credo che sia assolutamente controproducente, innanzitutto perché è necessario dare certezza delle disposizioni di legge, a maggior ragione su un tema come quello dell'immigrazione. Già in passato, proprio per una normativa confusa, le nostre frontiere erano aperte a tutti, quindi è necessario che, se c'è un limite, questo limite venga mantenuto. E non credo poi che ampliando ad un anno agli immigrati sia data possibilità di trovare lavoro più facilmente, se non osservando le disposizioni vigenti. In un momento di crisi come questo, in cui tante aziende chiudono, tante persone, padri di famiglia ma anche giovani, si trovano, se va bene, in cassa integrazione altrimenti senza lavoro, è necessario bloccare i decreti flussi, perché non è possibile poi avere la possibilità di trovare lavoro per tutti. E se contro la proposta del ministro Riccardi era abbastanza scontato che si schierasse la Lega, le parole dell'onorevole Maria Piera Pastore, che abbiamo raggiunto in aula per un commento, sono molto utili nel comprendere come la questione ruota intorno a 2 punti focali. Il decreto flussi da una parte e dall'altra la concorrenza in un mercato del lavoro che vede il lato della domanda ridursi sempre di più. Nel novembre scorso era stato il Ministero del Welfare a dare parere negativo all'apertura dei flussi per il 2012. Gli immigrati già nel paese, senza occupazione, superavano quota 280.000 e nella proibitiva congiuntura economica si stava affermando un fenomeno del quale forse comprenderemo la portata solo nei prossimi mesi. A causa della crisi, gli italiani stanno tornando a cercare lavoro in quei posti dove prima la domanda era quasi interamente coperta dagli stranieri. E per tracciare un quadro comparativo della situazione del mercato del lavoro per gli italiani e per gli stranieri, abbiamo sentito il dottor Mario Albisini della sezione occupazione dell'Istat. Con gli ultimi dati si registra un'attenuazione dei ritmi di crescita. Più in particolare, se vogliamo andare agli ultimi dati disponibili, quelli del terzo trimestre 2011, c'è una crescita ancora dell'occupazione straniera, parliamo di 120.000 unità in più nel terzo trimestre 2011 rispetto allo stesso periodo del 2010, tuttavia continuiamo a registrare un fenomeno di discesa del tasso di occupazione. Il tasso di occupazione degli stranieri passa in particolare dal 63,7% del terzo trimestre 2010 al 62,5%. Che vuol dire questo? Vuol dire che la popolazione straniera, che prima, diciamo, si indirizzava in misura maggiore direttamente nella zona dell'occupazione, oggi invece è in misura più ampia rispetto al passato, indirizzata anche verso fenomeni o di disoccupazione o più ampiamente verso fenomeni di inattività. Nel corso dell'ultimo periodo, sulla base dei nostri dati, non c'è stato un accrescimento forte dei ritmi di crescita. continuato ad aumentare la disoccupazione, ma non con ritmi di crescita elevatissimi dal lato degli stranieri, insomma. La questione che può lasciar pensare è naturalmente il continuare ad approssimarsi la crisi e la mancanza sempre più forte di lavoro, anche non solo per gli stranieri ma anche per gli italiani, come si sono visti dei casi, come è potuto essere nei servizi alle famiglie, di presenza anche di donne che magari si erano ritirate dal mercato del lavoro e si ripresentano per svolgere dei servizi domestici. Quello è un classico caso in cui, insomma, i rimorsi della crisi si fanno sentire. Per l'Istat, dunque, il fenomeno della sovrapposizione tra italiani e stranieri nel mercato del lavoro a basso livello di skill è ancora in fase iniziale. E allora ci siamo messi a cercare tra le storie che sfuggono alle statistiche, trovando la testimonianza di una giornalista napoletana, Melania Di Giacomo, che ci ha raccontato delle balie italiane che a Napoli si prendono cura di bimbi cinesi, figli di imprenditori che si stanno inserendo nel tessuto produttivo della città. A Napoli, nella zona della stazione centrale, precedentemente anche nella zona vesuviana, c'è questo fenomeno di donne chiaramente dall'aspetto mediterraneo che hanno nei passeggini i bambini cinesi. All'inizio uno può pensare che si tratti di adozioni o di affidi. In realtà queste donne svolgono un vero e proprio lavoro, vengono pagate 5 o 600 euro come da tariffario da imprenditori cinesi per assistere e crescere in sostanza i propri bambini. Si tratta di neonati, il più delle volte questi bambini hanno 3-4 mesi e rimangono con queste donne napoletane fino all'età scolare, dopodiché tornano in Cina per imparare la lingua. Di fatto separandosi dalle mamme italiane? Sì. Ecco, mi dicevi, in quali zone di Napoli avviene questo? Si tratta in particolare della zona della stazione centrale del rione Case Nuove, ma precedentemente il fenomeno era diffuso e è diffuso tuttora nella zona del Vesuviano, dove per la prima volta si sono impiantati nel napoletano queste imprese cinesi. Si tratta di opifici tessili o di capannoni all'ingrosso. Il più delle volte queste donne hanno una quarantina d'anni, sono fuori dal circuito lavorativo, hanno una bassa istruzione, abitano zone ad alta marginalità sociale, per cui un lavoro di questo tipo è l'unico che sono state in grado di trovare. L'alternativa sarebbe stata la cura degli anziani o un lavoro di pulizia domestica. Risulta più socialmente accettabile per queste persone occuparsi dei bambini piuttosto che della casa o accudire gli anziani. Si tratta di donne che vivono in una condizione vicina alla soglia della povertà. Il più delle volte hanno mariti disoccupati e questo stipendio che loro riescono a portare a casa rappresenta la fetta più grossa del reddito familiare. Si può dire in sostanza che questi bambini che loro riescono ad accudire in realtà poi danno da mangiare alle famiglie. Ascolta Melania, ma quante sono? Ma è difficile, sai, fare una stima, perché chiaramente queste persone sono fuori dal lavorano a nero, senza contributi. E poi soprattutto si accede a questo tipo di lavoro attraverso il passaparola. Certo. Non è possibile fare una statistica, però ti assicuro che in alcune zone di Napoli è un fenomeno visibile passeggiando in strada. Questa, come tutte le puntate, le potete scaricare e riascoltare podcast radio24.it. Siamo anche su Facebook, abbiamo la pagina, il gruppo Twitter e molte altre diavolerie informatiche, come il blog sul sito della radio e la mail contoluce@radio24.it. Torniamo domani, parliamo di scuola alle 6:30 su Radio 24.